Euroreportage. Euroreportage. Euroreportage. Sarajevo, 20 anni dopo. Una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa. Di Raffaella Calandra. Ma la guerra significa bambini, donne e anziani nei campi profughi. Significa dislocamenti forzati, significa case, strade, fabbriche distrutte, significa soprattutto tante vite spezzate. Voi lo sapete bene, per averlo sperimentato proprio qui. Oggi si leva ancora una volta da questa città il grido del popolo di Dio: mai più la guerra. Città che vide l'inferno in terra ora spera nelle generazioni arrivate dopo e nel Papa venuto dalla fine del mondo. Francesco arriva a Sarajevo 20 anni dopo la fine della guerra, 20 anni dopo il massacro di Srebrenica, quando anche qui si comincia a parlare di Unione Europea, ma le lacerazioni sono ancora dentro le vite di ciascuno dei 4 milioni di abitanti di un paese nato sulle carte di Dayton, ma non ancora nelle coscienze dei residenti. Bosniaci, croati e serbi convivono più o meno forzatamente dentro le architetture complesse di uno Stato, la Bosnia-Erzegovina, unico ad avere nella sua Costituzione due diverse entità e 3 differenti presidenti a rotazione. Ma nel privato, come ci racconta Olga, giovane bosniaca, le distanze tra le etnie sono ancora molto forti. I'm from Bosniak family. I'm also an agnostic. Sono bosniaca ed agnostica, ma il mio fidanzato, ci racconta dall'interno della galleria dove lavora, è croato e cattolico, e questo è un problema per la sua famiglia. Suo padre è morto nella guerra del 93, noi siamo insieme da 2 anni e mezzo, dovremo poter vivere la nostra vita, che è una sola. You have to live your own life and there's only one. Sospira Olga, perché sa perfettamente che questo condominio di popoli voluto per decreto nel 95 a termine del conflitto è sempre molto fragile, come la pace tra vicini di casa, più delle vetrate colorate dell'originaria Viesnica, l'antico palazzo comunale e poi biblioteca divenuta ora, dopo il restauro con finanziamenti 7 milioni e mezzo soprattutto europei, simbolo della ricostruzione del paese, riflette Vladimir Pandurevic, un cognome che rimanda alla polizia delle era ottomana. Until 1950, it was the city hall. Fino al 1950 è stato palazzo comunale, poi biblioteca, ma nel conflitto del 92 fu completamente distrutto dai bombardamenti. Nel 2014 è stato completamente ristrutturato. I principali donatori, oltre all'Unione Europea, sono stati la Spagna, l'Austria e l'Ungheria. E oggi è il simbolo della ricostruzione di tutta la Bosnia-Erzegovina, perché questo è il momento di tutte le etnie del paese. Guardando qui all'interno, vedi elementi di tutti i popoli che vivono qui. Trovi tante croci, ma pure tanti simboli orientali. Alle pareti di questo edificio che odora di nuovo e di storia trovi anche le foto degli anni in cui le donne giravano con lo zar addosso, un velo nero che copriva interamente il viso, tutto il viso, occhi e naso compreso. E ora di veli, ma soprattutto burka, se ne vedono di nuovo tanti tra le botteghe del mercato o le stradine della città antica, che aspira a diventare capitale del primo paese a maggioranza musulmana dell'Unione Europea, una prospettiva che l'ambasciatore Lars Gunnar Wingemark, alto rappresentante europeo e capo della delegazione a Sarajevo, auspica fortemente. La gente ora dice di guardare avanti e di non pensare troppo indietro alla storia, ma quest'anno sono 20 anni dagli accordi di Dayton e sono 20 anni dal massacro di Srebrenica. Dayton ha in realtà solo congelato il conflitto e ci sono tantissime questioni niente affatto risolte. Ma dall'anno scorso l'Unione Europea ha lanciato un nuovo approccio per le riforme socio-economiche e non vedo ragioni per cui in futuro la Bosnia-Erzegovina non possa unirsi all'Unione Europea. La Bosnia ha una maggioranza musulmana e le tensioni religiose qui esplodono molto facilmente, ma la Bosnia può diventare il primo paese europeo a maggioranza musulmana e personalmente penso sarebbe una gran cosa, perché dimostrerebbe che l'Unione Europea è aperta a questo. Personally, I would think would be a great thing because it would show that we can manage that the EU is open for that. Che al momento si infrange sulle lacerazioni tuttora aperte dal dolore di Srebrenica, il peggior massacro compiuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, amplificato dalla crisi economica, tanto che l'attuale capo dello Stato, che in questo momento è serbo, ha fatto sapere di non voler andare alle cerimonie per il 20° anniversario del genocidio l'11 luglio, perché le vittime, ha detto, sono strumentalizzate politicamente. Ora devo anche sentire che il presidente della Federazione della Bosnia, Erzegovina, non va alle celebrazioni per il 20° anniversario della strage. E penso che la politica ha avvelenato tutto. Ma spero solo che le coscienze delle persone, di tutte, dei serbi, che non ammettono il massacro, ma pure dei croati e dei bosniaci, siano toccate, perché non succeda mai più. Ma vedo ancora tante tensioni in questo nostro paese, che è un esperimento fatto dagli accordi di Dayton. Ma vorrei tanto vedere in vita ancora dei cambiamenti per lasciare ai miei nipoti una Bosnia migliore. Quasi non c'è sorpresa né indignazione nelle parole di Kadaotic, una delle madri di Srebrenica, 8.300 vittime ufficiali, più di 10.000 invece, secondo le stime delle associazioni come quelle di Kada, che si battono ancora per dare giustizia ai morti, una tomba ai dispersi e per consegnare ai nipoti la testimonianza di quello che è stato. Uno sterminio sistematico di musulmani nel cuore dell'Europa, per cui i due principali responsabili, i generali Mladic e Karadzic, sono ancora sotto processo davanti alla Corte Europea dell'Aia e l'Europa stessa, oltre all'ONU, comincia a fare mea culpa per non aver saputo impedire Srebrenica. Ma 20 anni dopo, soprattutto per i più giovani che quei massacri li ascoltano nei racconti dei nonni e li studiano sui libri differenziati di storia, l'Europa oggi è anche la faccia giusta della luna, sorride Emir, uno dei tanti ragazzi che non vorrebbe essere costretto a scappare da una disoccupazione vertiginosa. Per loro Europa è anche un ticket verso una vita migliore, dice, lontana da quell'inferno che solo 20 anni fa c'era qui a Sarajevo, ferita ancora aperta del cuore d'Europa. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.